Madonna, io non ho mai veduto. Pure il sorriso è languido, perché restarmi muta, ite, ite. Un genetil mistero e grave a me svelar, con qualche velo nero dovrò da me strappar, e dovrò da me strappar. Dal vostro accento il sogno crude e bovia trasfila, il labbro atroce eccia sì, ma forte scoppia l'ira. Io non vivi con sorte, non vi comprendo ancora. Pur d'abbassar la maschera, Madonna è questa l'ora. Per ora ad altruomo rivolto, donna infame, il tuo primo sospiro. Ad altruomo, che dite? Sì, donna infame, ieri quasi t'ho colto il peccato. Viva! Tu potesti salvarti e fuggire. Ascolta! Il mio quanto d'oggi afferrato, d'oggi afferrato. Più non fuggi, che dopo morire. Raccogli in Dio i tuoi pensieri.